Anni 10. Suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. Insomma, la domanda la rivolgo, diciamo, ad alcuni fortunati, via. La domanda sarebbe, non a tutti, perché stiamo sempre comunque nell'ambito del culto quando si parla di Twin Peaks, ma la domanda è, poi, dopo, avete mai più avuto paura allo stesso modo? Quella paura la cui definizione forse ancora oggi mica è una cosa semplice da spiegare, che si provava vedendo, pensate un po', in televisione, nel salottino di casa o addirittura in cucina, questo serial televisivo che era differente da tutto quanto si era visto in precedenza. C'è un piccolo anniversario, gli anniversari televisivi, come dire, sono un po' impalpabili, ne sono comunque trascorsi 20 di anni dalla messa in onda di Twin Peaks, per cui stanno uscendo i vari cofanetti celebrativi, le raccolte con i materiali rari e quant'altro, insomma tutto quello che serve poi in fondo a raschiare il fondo del barile, no? Di questo grande momento di televisione, di fiction, di ripensamento dell'utilizzo, ma poi viene soprattutto torna su, no? Il ricordo di quelle serate. Guardate che altro che partita la domenica, c'erano gruppi d'ascolto solidissimi, c'erano famiglie che scricchiolavano sotto il peso dell'episodio settimanale di Twin Peaks, anche perché lo dovevi vedere e ne dovevi parlare con chi fosse al tuo livello, insomma con chi capiva quello che potevi dire, le tue soprattutto ipotesi, perché si trattava poi di una televisione, o forse di un commento, forse di un modo di vivere la televisione fatto di ipotesi, ovvero in assenza di certezze, quelle che invece fino a quel momento erano state, no, celebrate come uno dei punti di forza della televisione. Accendi, guardi un programma e sai cosa vedi. Arriva Twin Peaks e cambia tutto il linguaggio del serial televisivo, e da quel momento in poi, tra l'altro, si riparte, perché non ci vuole molto a pensare che non sarebbe mai esistito un Lost, no? Se non ci fosse stato un Twin Peaks prima la partenza. E lì lo snodo è lì, e anche l'idea che David Lynch, che fino a quel momento poi insomma era un autore cinematografico, autore, insomma, che faceva film anche molto bizzarri, poco di cassetta, arrivasse in televisione e mettesse in scena in forma di serial uno spettacolo strano, bizzarro, stravagante, mal visto almeno inizialmente da chi lo produceva, che però attirava, no, come la mosca sul miele, un pubblico che da quel momento in poi si trasformava in un pubblico ultra. Diane, 4:10 del pomeriggio, luogo del delitto. C'è qualcosa che era sfuggito prima. Un mucchio di spazzatura di circa 40 centimetri di diametro. In cima c'è una catenina con un cuore d'oro. No, aspetta, mezzo cuore d'oro. Alla base del mucchio di spazzatura c'è un pezzetto di carta di giornale con una scritta che sembra essere fatta con il sangue. Fuoco cammina con me. Fuoco cammina con me, sì. Questa era la parola magica, la frase fuoco cammina con me, tutto, no? Poteva contenere, e ci si arrovellava nei mille labirintici misteri, negli indizi che Lynch, i suoi sceneggiatori, spargevano qua e là, nelle strade a fondo chiuso, no? Che ti facevano imboccare pensando di aver intuito qualcosa, invece non si capiva, la formula era curiosa, mescolava la soap opera. Più classica con il mystery, ma anche con la videoarte e anche con il videoclip. La musica di Badalamenti dava al tutto una confezione, un'atmosfera straordinaria, e c'era la capacità di mandare in esplorazione i telespettatori. L'idea formidabile era questa, che il telespettatore del telefilm, addirittura quindi quello più rilassato, in un certo certo senso più banale, diventava protagonista di una operazione in un certo senso di avanguardia, no? Innovativa. Si sapeva come si entrava in un episodio di Twin Peaks, ma non come, come se ne sarebbe poi usciti. Ed è un punto di svolta certamente per la serialità televisiva, un prodotto che metteva della classe, dello stile, della ricerca, della innovazione dentro un serial. Che fine hanno fatto i tanti interpreti di quel cast formidabile, un altro dei grandi segreti di Twin Peaks? Pochi hanno avuto veramente fortuna. Una attrice che tutti giuravano avrebbe sarebbe diventata tra le più seguite di Hollywood, Lara Flynn Boyle, è finita a fare serial televisivi. La ragazza che interpreta Laura Palmer, a sua volta Sheryl Lee, più che altro ha fatto televisione. C'erano tutti poi quei personaggi di contorno che lo stesso Lynch aveva ripescato un po' nel sottobosco di Hollywood. Uno per tutti, quello che si occupava di dare un volto umano e presentabile a Bob. Zia Lela, che cos'è questo odore? Sembra che qualcosa stia bruciando. Oh mio Dio, zia Sara. Questo è Bob, ma è anche Leland, i due, tre, quattro personaggi che si radunano in una sola personalità, no, il sottofondo della coscienza, che è poi il gioco principale di David Lynch, sul quale poi sarebbe tornato tante volte, sul quale avrebbe ricamato anche nel suo cinema. Per concludere, Twin Peaks ha cambiato la televisione. 20 anni dopo, rivedere Twin Peaks è una operazione da fare, è un'operazione da anni 10. La risposta che vi do, dopo aver rivisto qualche brano di un serial che a suo tempo avevo veramente adorato, certamente sì, anche perché si capisce da dove viene tanta televisione che vediamo adesso, e soprattutto, inspiegabilmente, anche a una seconda visione, si continua ad avere paura. Anni 10. Figure. Guardano tutti, com'è? Non guardano te, guardano me. Nei negozi non sono gentili, non mi va. Non sono mai gentili con la gente, sono gentili con le carte di credito. Insomma, il dialogo l'avete certamente riconosciuto, certamente sapete, no? Avete in mente Julia Roberts e Richard Gere che passeggiano per Rodeo Drive in quel indimenticabile shopping. Riaffiora in pieno 2010, tanti anni dopo Pretty Woman, 20 e passa anni dopo la sua uscita nei cinema, perché c'è un outing molto divertente da leggere sul settimanale Entertainment Weekly, che ormai è diventato il più importante quando si parla di show business americano, ed è a firma del critico cinematografico di Entertainment Weekly, che si chiama Owen Gliberman, che fa un mea culpa e scrive, chissà quanto gli è costato scrivere questo articolo, dice 20 anni dopo Pretty Woman e la mia infame recensione, gli detti un D, che sarebbe come dire un 4, voglio fare il mea culpa, però mettere lì anche la mia tesi difensiva, e scrive un articolo lunghissimo per spiegare, per raccontare come fosse inciampato lui, che è un critico serio, un allievo di Pauline Kael, insomma della critica cinematografica, quella che prendeva con grande slancio, con grande serietà, con grande impegno il proprio compito, la propria missione, addirittura come era finito a quel modo che poi racconta gli sarebbe costato carissimo per il resto della vita, nel senso che la sua carriera professionale sarebbe stata macchiata in modo indelebile. Lui era quello che aveva dato 4 e aveva stroncato moralisticamente Pretty Woman, e lui dice sì, era proprio per quello. Io ho visto questo film film e mi ero fatto fondamentalmente due convinzioni. Prima convinzione: secondo me Richard Gere e Julia Roberts insieme non funzionavano, non avevano chimica, come dicono, come si dice in questi casi. E dice, e su questo esprimo il mio totale mea culpa, non è vero, ho rivisto il film un sacco di volte, quei due di chimica a volgia, se ce n'avevano, tantissima. Secondo capo d'accusa, anzi di auto accusa, una questione morale, dice il nostro Owen Gliberman. Secondo me quel film santificava la figura della prostituta, ovvero il gesto della prostituzione, no? Come atto evolutivo di una carriera, di una vita, di una ricerca di opportunità. E qui lui di nuovo dice, forse ho esagerato, poi non riuscivo a cogliere il vitalismo, insomma, che bene o male animava i due personaggi, la voglia di riscatto, ciascuno per la propria strada, però insomma è un po' più interrogativo. E noi a nostra volta, come dire, accogliamo con un abbraccio di perdono il nostro Owen Gliberman, perché ci è venuto in mente, no, l'Italia nella quale viviamo oggi, l'Italia delle escort e di tutto quello che conoscete perfettamente di cronache, gossip che circonda l'argomento. Beh, provate a questo punto a proiettare una volta tanto Pretty Woman non su uno sfondo favolistico e hollywoodiano, ma sullo sfondo delle escort nazionali, no? Di cui sentiamo parlare tanto. Vedete che il film assume, come dire, una luce un po' sinistra, perché gli elementi ci sono praticamente quasi tutti, no? Anche la cifra prefissata, che Gere, insomma, leggetelo un po' in questo modo. Secondo me è una assoluzione, dai, per insufficienza di prove, al critico di Entertainment Weekly va concessa. Did you find that waitress sexy? Which one? The one you were flirting with. Oh, come on. I was being friendly. Un altro che si becca quasi sempre delle recensioni non direi dure ma acide è questo regista qua, che si chiama Atom Egoyan, che è nato in Egitto, al Cairo, di famiglia armena, ma in realtà poi canadese di adozione e americano di professione, autore di alcuni film meravigliosi, tra cui vi ricordo Il dolce domani, secondo me uno dei film più importanti degli interi anni 90, soprattutto la cinematografia americana. È uscito, è in uscita questa settimana nei cinema americani con un film che è destinato a fare cassetta, rumore e a suscitare dibattito. Si chiama Chloe, il film ha un grande cast perché vede Julianne Moore a fianco di Liam Neeson. È un remake di un film francese che si chiamava Nathalie con Fanny Ardant e Gérard Depardieu. Lancia in orbita una giovane attrice di cui si parla tantissimo, benissimo, insomma, la cosa nuova del 2010 a Hollywood, che si chiama Amanda Seyfried, ma soprattutto perché, e questa è la chiave del discorso, ancora una volta è un film altamente psicanalitico, come piace fare a Egoyan e come da un po' di tempo piace molto frequentare al pubblico metropolitano, al pubblico dei metrosexual negli Stati Uniti. È una esplorazione, no, in quel mondo un po' sordido del non detto, dei desideri illeciti, delle possibilità di tradimento reciproco, e Atom Egoyan è un po' il maestro di questa cinematografia. Per quanto ci riguarda possiamo già profetizzare per Chloe, non appena arriverà nelle nostre sale, sui nostri schermi, un dibattito assai accaldato, no? Fra gli intellettuali della psicologia popolare, naturalmente applicati poi ai territori tutti là d'attorno al sesso. Siamo qui! Ho portato i samurai! Ho portato i samurai! Chi ricorda questa scena è quasi un cinefil, perché secondo me i film di Akira Kurosawa non si vanno più a vedere, perché non esistono più i cineclub, e ci dispiace assai, perché quelle salette così un po' polverose ci hanno fatto tanta compagnia e ci hanno anche dato una discreta formazione. Sul Guardian vi segnalo una eccellente serie, un sistema di articoli che festeggia il centesimo anniversario della nascita di Akira Kurosawa, morto nel 98, sceglie anche i suoi 10 film migliori, e la scelta è perfettamente condivisibile. C'è la versione cinematografica dell'Idiota di Dostoevskij, che resta un capolavoro insuperato, oltre naturalmente a Rashomon, ai film con Toshiro Mifune, fino a quell'ultimo stranissimo film che si chiamava Dreams, dal quale uscimmo, come dire, perplessi e anche un po' scocciati. Poi dopo, come dire, il ragionamento momento è servito a qualcosa, a quadrare meglio la comprensione del film di questo maestro che resta certamente un monumento del cinema giapponese. Civic TV, il canale che vi portate a letto. Max, avanti, su, è ora. Questo era Videodrome, ve lo ricordate, Cronenberg e le sue ipotesi su come un schermo televisivo, anche quello di una vecchia televisione, possa essere meno inoffensivo di quanto sembra, anzi da lì possa uscire di tutto. Erano anticipazioni così ad altri tempi, da ventesimo secolo, che 2010, della tridimensionalità e dei pericoli connessi. L'abbiamo rispolverato solo per riferirvi una notizia che ci ha sorpreso piacevolmente. Il 3D è in arrivo anche nelle nostre case, addirittura il 3D è in arrivo nelle nostre console per i videogiochi. A sorpresa, i primi ad annunciare la console in 3D, a ufficializzarne la messa in commercio, sono quelli della Nintendo, perché la prima console 3D sarà quella piccolina, la DS, no? Quella che usavano i bambini per i loro primi giochi e adesso gli adulti per fare quegli strani giochi di memoria. Ebbene, c'è in rete, facilmente raggiungibile, una demo del DS, del 3DS, 3D Nintendo. Se funziona come si vede in questo filmetto, vi posso garantire che la qualità è straordinaria. How are you doing? Very well. Where are you coming in from? You're always... I'm always somewhere. You know, generally when people see me turn up, they get very jittery. They think something bad. Le ultime figure di cui vi vogliamo parlare oggi ad anni 10 sono quelle che riguardano la titolare di questa affascinante voce. Forse qualcuno di voi è abituato a frequentare i canali televisivi satellitari americani l'ha già riconosciuta, è Christiane Amanpour, la star assoluta per molti anni di CNN, l'inviata speciale soprattutto dalle corrispondenze più difficili, dai territori di guerra o dagli angoli del pianeta vessati da chissà quale tragedia. Ha cambiato mestiere, ha lasciato un po' il giornalismo di prima linea, ha accettato un'offerta sicuramente rivestita d'oro, ha salutato CNN ed è passata alla ABC News. Sarà la anchorwoman della più accreditata, la più rispettata testata giornalistica di ABC, che si chiama This Week, che è un settimanale che va in onda la domenica e che raduna soprattutto interviste, incontri con i grandi personaggi del potere, della politica americana. Però appunto è un magazine, quindi con un'impaginazione diversa, niente più diretta dal fronte per Christiane Amanpour, che tra l'altro prende il posto di George Stephanopoulos, un altro ex politico e poi giornalista di grido della ABC. Ha promesso come suo contributo innovativo alla messa in onda di This Week, la Amanpour, di dare alla trasmissione un taglio molto più globale che in precedenza. Insomma, ha detto: voglio che le notizie internazionali, le notizie dall'estero, le notizie straniere per il mio pubblico diventino meno straniere. Mi manchi tu, la fantasia, il cinema, l'estate indiana. Mi servi tu, un brivido, il ghiaccio nel campo. Anni 10. Suoni. Pour la première fois à Bruxelles, capitale de toutes les folies. Ce soir, Iris Blonde and the Freezer. Big time liar. ci state prendendo sul serio, state sbagliando, ma sicuramente la maggioranza di voi avrà capito, decifrato, ricordato, riannodato no, con queste immagini che forse vi saranno tornate alla mente. Iris Blonde per l'italiana, and the freezer, il frigorifero, non so, erano in realtà Carlo Verdone e Claudia Gerini, protagonisti di un film tra i più divertenti della filmografia di Verdone, ma di un film di intensa ambientazione nel mondo del pop, forse sarebbe meglio dire nel sottomondo del pop, perché poi è la storia di un duo un po' così, un po' rabberciato, che si mette insieme in modo un po' improbabile, prova una carriera, ma finisce poi in una serie di guai, di tradimenti reciproci, di porcherie, ma anche di rimpianti. Ma a noi quello che ci interessava era la struttura musicale in questione, quella del duo composto appunto da una Claudia Gerini e Tessimilia, insomma da una bella vocalist dall'aria affascinante, dietro da un freezer, da uno un po' frigorifero, insomma da uno che dietro i sintetizzatori o con la chitarra un po' nascosto, un po' nell'ombra, fa quello che si dice il lavoro sporco. E Verdone, che è un esperto di musica, ci ha fatto sopra un film molto divertente, però poi questi gruppi esistono sul serio e oggi a un paio di questi vogliamo accordare la nostra attenzione, perché sono prodotti invece degnissimi, che come mandato di anni 10, magari non avete notato la cui entrata in commercio, sul mercato, che vogliamo proporre e raccontare, per la quale il primo si chiama Goldfrapp, che è un nome di grande risonanza internazionale nel mercato del pop, che però man mano che passa il tempo, come dire, si è un po' spostato in una nicchia un po' modaiola, sembra un po' musica da sfilata di moda, ecco, diciamo così. Sono veramente il duo come Iris Blonde and the Freezer, non ce n'è un altro più uguale, perché lei è una donna bellissima, si chiama Alison Goldfrapp, affascinante, che balla benissimo, canta benissimo, però le manca sempre qualcosa, è come se non fosse esattamente completamente autentica, viva, non so come dire. E lui è uno che invece nessuno di noi ha mai visto, ma sappiamo che c'è, si chiama Will Gregory, e per l'appunto è quello che fa il lavoro sporco. I loro dischi invariabilmente sono molto buoni, perché sono capaci di rinnovarsi volta in volta, l'hanno fatto anche questa volta, è il quinto album quello che pubblicano, si chiama Head First, prima la testa, è pura rivisitazione anni 80, con i sintetizzatori a carriole. Lei sembra Jane Fonda, se possiamo tentare il paragone, è molto divertente. Questa si chiama Rocket, Goldfrapp. There's no Vabbè, già li sento i vostri sguardi di rimprovero verso la vostra radio, insomma, questa musica così disimpegnata, ma insomma è primavera, no? È primavera anche per noi. Poi Golf Rap sono, come dire, consumabilissimi, non so se vi piacciono più o meno di Iris Blonde and the Freezer, certo quella è leggenda vivente, però siamo un po' da quelle parti, ma noi vogliamo restare ancora da quelle parti e raddoppiare, replicare, perché ce n'è un altro di duo molto molto, come dire, alla moda al momento, molto commentato, recensito, seguito dalle pagine della, soprattutto la stampa americana, e ci risiamo. Lei è bellissima, canta, anzi lui ha fatto accorgere lei di avere il dono della canzone. Lui prima era uno serissimo che seguivamo con la tristezza della passione musicale, perché era uno di quelli iscrivibili a tutti gli effetti tra i cantautori depressi americani, che a cavallo fra anni 90 e 2000 sono stati una categoria, americani, inglesi, insomma, Damien Rice o Elliot Smith, un genere a sé stante, e M. Ward, questo è il suo nome, M come M, Ward, era bello alto in classifica. Poi ha incontrato lei, e lei, pensate, no, come tutto torna, come Iris Blonde riaffiora, era a tutti gli effetti una attrice anche di successo, si chiama Zooey Deschanel ed è una delle ragazze che nella Hollywood dei film indipendenti ha fatto spesso parlare di sé. Si sono per l'appunto conosciuti sul set di un film che si chiama The Go-Getter. Il regista ha detto: ma perché non provate insieme? Lì hanno provato e poi non hanno praticamente più smesso, credo anche si siano fidanzati, o perlomeno nei video sembrano sempre molto affiatati. Hanno pubblicato un primo album di canzoni che si chiamava Volume 1, tanto per non faticare troppo con la fantasia. Lei ha quest'aria un po' smarrita della cantante, un po' per caso, ma insomma dopo Carla Bruni qui siamo già no, in un expertise musicale offerto dalla nostra Zooey. Adesso hanno fatto un volume 2 che è stato accolto con molto interesse e molta simpatia dai recensori americani. Lei è anche migliorata tecnicamente, canta con maggiore padronanza, maggiore sicurezza di sé. Lui ormai è lì nell'ombra dietro, ma vi ricordo che è un musicista con i fiocchi e forse la scrittura delle canzoni lo fa ancora percepire, e il loro gruppo va avanti. Loro si chiamano come band She and Him, gli piace il minimalismo, cioè lei e lui, e allora She and Him volume 2, eccoli qua. Sentite com'è lazy, com'è pigra, come se fosse capitato un po' per caso, no? Davanti a un microfono la nostra Zooey Deschanel, mentre dietro M. Ward tiene insieme la struttura musicale di questo duo che si chiama appunto She and Him. Questo è il volume 2, volume 2 della loro discografia, della loro storia che va avanti. Poi, come al solito, certe volte, no? La coppia scoppia, insomma, un po' la noia dell'essere sempre sul palcoscenico e nei camerini con un freezer. E che cosa succede? succede che arriva il terzo incomodo e il duo diventa un trio. In Italia c'è un trio che ha meritato addirittura l'attenzione di Mollica sul TG1, insomma un lancio con i fiocchi, ci ha fatto anche un certo effetto, perché sembrava normale che dei Baustel, di loro stiamo parlando, il trio toscano che ormai sa come non solo fare bei dischi ma anche scalare le classifiche di vendita del nostro paese, insomma c'è grande attenzione perché è in uscita in questo weekend il loro nuovo album che si chiama I Mistici dell'Occidente, un album già annunciato come un possibile campione di vendita, ma anche un altro oggetto del discorso, perché i temi nelle canzoni di Baustel sono di attualità, parlano dell'Italia di oggi, parlano addirittura del potere nell'Italia di oggi, parlano addirittura di Berlusconi che senza essere nominato appare, no, come una entità suprema ma forse non sublime all'interno delle canzoni di Baustel, per come lo inquadrano, per come lo raccontano, per come lo cantano. E tra l'altro Bianconi, il leader un po' di Baustella, anche se loro sicuramente non sarebbero d'accordo nel definirlo così, Francesco Bianconi ha presentato il disco anche in modo molto politico, dicendo: noi siamo anarchici, per carità, la politica per quello che è in Italia oggi non ci interessa, però dire la nostra sul senso di smarrimento e di scontento che percepiamo nell'aria è una cosa che intendevamo fare. Poi parla di se stesso anche come cantante, azzarda un paragone della propria voce, un paragone vocale, beato lui che ha questo coraggio, con Fabrizio De André. C'è intanto un singolo che precede l'album di Baustel, che vi ripeto ancora, si chiama I Mistici dell'Occidente. Vedremo fra una settimana quanto in alto sarà salito. Senza pietà, senza chiedersi perché, come il falco e la rugiada, e non dubitare mai. Anni 10. Parole. First of all, we have to ask the question: what is LSD? LSD is a chemical, but it's not a drug. Most Americans L'LSD è è chimico, ma non è una droga, la supponenza, il coraggio di dire la nostra voce in sottofondo, che appartiene al molto riverito santone della psichedelia Timothy Leary, ed è parte lui, il personaggio, e anche una affermazione, insomma, piuttosto rischiosa come questo, di un grande procedimento di ricostruzione che ormai l'America letteraria, l'America della memoria, avrebbe perfino da dire l'America della storia, sta cominciando seriamente a fare, dedicandola al ventennio a cavallo fra anni 50 e primi 70, che è quello che ha cambiato veramente faccia alla nazione più conosciuta, più studiata e appunto più raccontata del mondo, gli Stati Uniti d'America. Sono tanti i libri di grande interesse che in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi sono arrivati sul mercato, dedicati a una ricostruzione di che cosa succedeva in quel periodo, come succedeva, chi lo faceva succedere e soprattutto quale capacità di modificare gli scenari, di innovare, di cambiare e di indicare nuove strade questi personaggi, questi eventi, queste scene avessero per l'America, e non solo per l'America, anche per tutto il resto del mondo, tutto il resto d'Occidente, diciamo così, che guardava l'America. Oggi ne aggiungiamo altri due di questi libri, ma uno ve lo ricordiamo ancora. È un libro che vi abbiamo presentato qualche settimana fa e si intitola Just Kids ed è una autobiografia di Patti Smith che, per fortuna, lasciatemelo dire, non si limita a raccontare, no, il suo percorso musicale, ma invece con molto maggiore interesse per chi legge, ricostruisce in modo vivido, in modo intenso, in modo ricco, in modo anche divertente, una scena nella quale Patti Smith si trovò a fare, a sua volta, da protagonista. Oggi altri due libri. Il primo riguarda Timothy Leary, che se alcuni di voi non lo sanno è uno scienziato molto particolare, che mise a punto e soprattutto propagandò in tutto il mondo, soprattutto in quello della controcultura, delle culture alternative, l'utilizzo dell'LSD, dell'acido lisergico. Ma il libro ha un respiro ben maggiore e un titolo divertente e più importante. Si chiama The Harvard Psychedelic Club, sottotitolo Come Timothy Leary, Ram Dass, Houston Smith e Andrew Weil uccisero gli anni 50 e aprirono la porta alla New Age in America. Perché questi quattro signori, dovete sapere, erano dei docenti di Harvard, cioè quelli che misero appunto l'LSD, la droga, no, che oltre a inventare la psichedelia cambiò, spaventò la faccia delle culture giovanili, intrise dentro queste culture un elemento di pericolosità e certamente un forte slittamento psicologico per le porte, le famose porte la percezione che si aprivano. Erano professori di Harvard, anzi avevano anche dei nomi, dei nomignoli si erano dati: il trickster, il seeker, il teacher e lo healer, il guaritore. Qui c'è la ricostruzione, questo non è un libro come quello di Tom Wolfe che racconta l'esperienza psichedelica da un punto di vista sociale, questa è una ricostruzione accurata, anche un po' noiosa, ma molto formale, di come sono andate le cose, ovvero di come quattro ricercatori di Harvard, piuttosto malvisti naturalmente nell'ambiente accademico, un po' alla volta abbiano messo in piedi il laboratorio all'interno della quale si stava ultimando una vera e propria bomba atomica della mente, per l'appunto la LSD, l'acido lisergico, a cui poi sarebbe improntata nel bene e nel male tutta una cultura negli anni successivi. Carnal Knowledge, a bittersweet sexual comedy with a brilliant cast, starring Jack Nicholson. It's not as easy getting laid as it used to be. And Margaret. I think you're a dirty old man. Art Garfunkel. Art Garfunkel, Ann Margaret e Jack Nicholson. Che film, ragazzi, se per caso non l'avete visto perché non siete grandi abbastanza o non lo avete mai rincontrato nelle peraltro rarissime programmazioni televisive, non ve lo perdete, andatelo a cercare, andatevi a comprare il DVD. Si chiama Carnal Knowledge, conoscenza carnale, traduzione letterale in italiano, firmato da Mike Nichols e tratto da un libro sceneggiatura, in realtà da una sceneggiatura libro, firmata da Jules Pfeiffer. Chi è Jules Pfeiffer? Jules Pfeiffer è, come Patti Smith e come i quattro nostri santoni di Harvard di cui poco fa, un altro personaggio chiave degli anni 60-70 americani, che adesso alla venerabile età di 81 anni ha scritto una autobiografia che aiuta moltissimo, dà un contributo intenso, forte, divertente, ironico, intelligente alla comprensione della cultura metropolitana americana, nella fattispecie insieme va a braccetto con quello di Patti Smith nel raccontare New York. Il libro si chiama Backing into Forward, retrocedendo, andando verso l'avanti, non so come dire, è memoir, una memoria, un'autobiografia, è pubblicato da Doubleday, da uno dei più grossi editori americani, costa $30 perché è un volume corposo e contiene tanti disegni, perché Jules Pfeiffer, forse adesso vi comincia a tornare alla memoria, è stato soprattutto quasi esclusivamente per la prima parte della sua carriera professionale un autore di fumetti, di vignette che portavano poi il suo nome, si chiamavano semplicemente Pfeiffer, ed erano quelli, cerco di aiutarvi ancora, pubblicati abitualmente da Linus ma anche da tanti quotidiani, in cui di solito c'era una giovine donna in calzamaglia nera che, non so, faceva una danza alla primavera, no? Faceva una danza alla primavera, e nel fare questa danza alla primavera o all'estate, l'autunno, poi faceva delle laconiche ma acute considerazioni attorno allo stato delle cose, allo stato mentale dell'America, allo stato mentale addirittura di una intera epoca. Erano considerati i cosiddetti fumetti intelligenti, poco poco tratto e molto contenuto. Poi Jules Pfeiffer è invece diventato un socialite, un vero e proprio personaggio sociale di New York, uno che frequentava Truman Capote, Gore Vidal, amico di Woody Allen, anzi nel libro lo prende molto in giro, dice sì sì, Woody Allen è vero che è uno che non si vuole mai far vedere, uno così elusivo che si nasconde sempre, in realtà si nasconde sempre, però sta sempre a capotavola di una tavolata nel più famoso ristorante di New York, quindi si nasconde a modo suo. Pfeiffer è un ragazzo ebreo del Bronx, venuto su proprio in una formazione simile a quella di Woody Allen, no? Famiglie che dove urlano tutti insieme, gridano, fanno un gran casino, però poi sono molto legati, ricostruisce anche questa componente ebraica newyorkese indispensabile per capire la sua New York, la sua America e anche la sua carriera, la sua lunga gavetta e poi l'approdo naturalmente al successo. From the faraway towns, a war is declared, a battle come down. London calling to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, I know you're to us, a phony Romania, a stiff in the dust. London calling, so we ain't got no sway, except for the rain, or that concert fame. The ice age is strong, the sun is zooming in. E allora ci affidiamo per concludere le novità che vogliamo segnalare nella puntata di oggi di Anni 10 a questo supergruppo improvvisato che esegue però quello che è un inno accertato. Lì ci sono Springsteen, Elvis Costello, i Clash naturalmente, e cantano l'inevitabile London Calling perché è uscita una app per iPhone, e noi ormai riteniamo le app, le application per iPhone come luogo comune, territorio comune, non se ne parla tanto per la marca ma per quello che fanno, e quella che fa questo ci ha molto divertito ed è peraltro in sintonia con questo spazio parole del nostro programma, perché è una app, un'application della Londra letteraria. In sostanza a che serve? Serve a uno di quei signori che ormai non solo a Londra, anche a Milano o a Roma incrocerete spesso e volentieri sulla vostra strada, e state attenti, che camminano non più guardando una cartina o guardando i nomi delle strade, ma guardando un telefonino, perché hanno il navigatore, anzi hanno il navigatore che gli dice anche un sacco di cose, e quindi seguendo tutte le cose che gli dice il telefonino vanno naturalmente sotto una macchina. Nella fattispecie la app della Literary London, ovvero della Londra letteraria, ti porta in giro per Londra e ovunque tu vai ti dice che cosa è successo letterariamente parlando in quel posto, e quindi potrete tranquillamente imbattervi nei luoghi, no, deputati di Dickens o in quelli di Shakespeare, ma anche quelli, non so, di Martin Amis e giù verso London Field per esempio, o in quelli di Ian McEwan, no, nella Londra del sud-est della borghesia inglese, o andando su verso nord, verso Hampstead, dove c'è sempre stato il grande circolo letterario, intellettuale londinese. Praticamente ogni angolo, ogni casa riserverà dei segreti, e a questo punto Londra vi chiamerà ancora più forte. Però state attenti, ripeto, a non finire sotto una macchina, tanto più a Londra, dove arrivano dalla parte opposta da quella che vi aspettate. Questo è Anni 10 di oggi. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia c'è Valerio Rocchetti, abbiamo una mail che è anni10@radio24.it e abbiamo due pagine Facebook dove tutte le cose che vi ho raccontato sono ancorate, no? Potete con dei link partire da lì e poi risalire ai prodotti veri e propri, film, dischi, televisione, libri, quant'altro. E le due pagine Facebook si chiamano Anni 10 Radio 24 e semplicemente Anni 10. Ci sentiamo tra una settimana dai microfoni di Radio 24.